Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? E sempre interessanti i nostri magazine, anche se con qualche motivo di dialogo che può essere dibattito per quanto riguarda non solo arte, cultura, quello che è una storicità in tutto questo, anche dal mito ai classici, potrei aggiungere ovviamente ampio spazio per letteratura e quant'altro, ma anche per gastronomia. È proprio da qui che iniziamo, dalla gastronomia. Pensate un po', a colazione già arriviamo a parlare di tortelli. A pagina 15 troviamo dal Sole 24 Ore, nell'inserto di domenica, l'area del tortello ha un perimetro difficile da vedere, geografie alimentari. Sì, non ha dato, diciamo, anche un'attenzione particolare, forse perché è tortellino, anche per dare una completezza a tutto ciò, ma già di per sé tra tortelli e cappellacci direi che il menù è quanto mai esteso, e lo vediamo nell'articolo di Alberto Grandi. Il piatto più famoso ed emblematico della cucina mantovana sono i tortelli di zucca, ricordo anche quelli ferraresi. Tuttavia, se a Mantova il ripieno è ormai codificato con amaretti e mostarda, il problema è che all'interno della stessa provincia il piccolo contenitore di pasta all'uovo, che qui chiamano tortello, cambia di forma e anche di condimento. Lo si può trovare condito con semplice burro, con salsa di pomodoro, addirittura con la salsiccia. Ma il vero dilemma è che i tortelli di zucca sono tipici anche di Ferrara, come ho precisato poc'anzi, dove si chiamano cappellacci, anche a Parma, anche a Reggio Emilia, a Cremona, e tutte province che confinano con quella di Mantova. Poi ognuno ha le sue preferenze, voglio dire, non è che ci sia certamente per quanto riguarda l'aspetto. Ho voluto iniziare da qui perché ho letto e riletto l'articolo sperando anche in un paragrafo dedicato ai tortellini, ma non ho visto, insomma, in questo caso il famoso dibattito, no? Bologna-Modena, poi siamo arrivati a Castelfranco, la tradizione e leggenda dall'ombelico di Matilde di Canossa, fino ad arrivare invece una pietanza povera che prendeva tutto quello che avanzava e veniva avvolto in questo velo di pasta e poi messo nel brodo, perché i veri tortellini, non lo sto a ripetere, sono in brodo, quindi hanno questa origine sia nobile e allo stesso tempo anche quanto mai proletaria, permettetemi il termine. L'area del tortello non ha solo un perimetro geografico ma anche di storia, difficile da vedere per queste geografie alimentari. E infatti con questo mi collego all'articolo più esteso di una gastronomia immaginaria. A tavola, una delle certezze granitiche degli italiani è che i piatti che oggi mangiamo siano nati secoli fa e poi tramandati. È falso. Il libro di Grandi e Soffiati ci fa vedere la nostra cucina con occhi diversi. Ad esempio, la carbonara è un piatto americano inventato a Roma e di pasta se ne mangiava in passato assai poca. Eh sì. Come ben sapete è un argomento che mi interessa, anche se con l'avanzare dell'età mi sono dovuto limitare non poco, ma ammetto che me la son goduta dal punto di vista enogastronomico da quando ho ottenuto indipendenza economica. Il mio tempo passato nelle trattorie è stato assolutamente importante, anche di studio, non solo per il gusto ma anche per la storia. Allora, l'importanza di questo convivio, l'importanza del gusto, del piacere a tavola, è allo stesso tempo ho iniziato presto, come vi ho detto, appena arriva lo stipendio si va subito in cicceria a Castel San Pietro, oppure si va alle Aie a Milano Marittima, insomma tutti quei posti, quelle trattorie dove si mangia tradizionale e allo stesso tempo si ha una capacità anche abbondante di servizio, se vogliamo. Beh, vista la giovane età abbiate pazienza che anche questo aspetto era da notare. E il grande piacere nel avere pranzi di tale entità o cene mi portava a momenti di riflessione, ma io vedevo sempre sdaure o persone non giovanissime per quanto riguarda la cucina. Allora dentro di me mi chiedevo: ma queste signore non saranno eterne, quindi inevitabilmente ci saranno trasformazioni. Quale futuro per questo piacere? Io mi chiedevo. Anche con un malcelato egoismo avevo paura di perdere un po', no? Questa possibilità, e allora mi preoccupavo. Poi ovviamente il mio appetito naturalmente è calato e allo stesso tempo i cambiamenti sono arrivati. Adesso è un motivo divergente nella cucina quello che è il confronto non solo tra generazioni ma anche tra proposte. È cambiato completamente, adesso parlano di impiattamenti, di piatti per chef stellati, una possibilità alimentare e gastronomica che, se vogliamo, può essere anche in crescita, ma allo stesso tempo che, a mio modesto parere, ha delle mancanze importanti, come può essere quella della tradizione, del convivio, della continuità. Certo, la ricerca nel gusto è qualcosa che porta a una crescita, ma allo stesso tempo si perde poi da altre situazioni, per non parlare poi di quello che è un aspetto di cucina quanto mai estesa oltre confine e oltre continente, che va benissimo, però non deve cadere nella commercializzazione e spesso, molte volte capita, anche nella perdita della qualità, innanzitutto per motivi di salute e allo stesso tempo perché trovare una continuità culturale nel diffondere la cucina come deve essere, visto che ci facciamo tanto, ci riempiamo la bocca non solo di cibo ma anche di belle parole per descrivere questi piatti e questi viaggi nel sapore, magari cercare di mantenerli anche attinenti alla qualità e alla realtà stessa di percorso. Questo è l'inizio dei magazine, e poi vogliamo aggiungere anche quello che comporta il famoso fast food, il cibo spazzatura. Anche questo per i più giovani è stato un motivo di, se vogliamo, perdita per quelli che sono i percorsi, che d'altra parte invece trovano un'esplosione, una crescita. Adesso ci sono un po' questi due estremi, no? Tra cibo spazzatura e fast food, e allo stesso tempo, d'altra parte, nell'altro estremo di questo segmento, una qualità, almeno per così dire, elevatissima, di continuo chef stellato e ricerca. In tutto questo faccio molta fatica a ritrovarmi, che da mangiatore che ero, probabilmente anche questo ha fatto calare il mio desiderio enogastronomico. Ciò non toglie che continuano a esserci trattorie, come ben sapete, che provo a consigliare, a ricercare, senza cadere in quella banalità, si mangia bene solo dove ci sono i camionisti. No, ecco, se vogliamo, si mangia bene dove si mangia bene, punto. You see, 9 to 5, living. poco il suo palato, sia nel bere che nel mangiare, ci mancherebbe. Ne abbiamo così poche di piaceri e libertà che almeno questo ci pensa poi l'età a metterci un limite inevitabile. Fondamentali anche i tempi di attesa, ecco, nel servizio io guardo quello, non è che sia un, per me sono i tempi di attesa quello che mi fa valutare o meno il servizio, e ovviamente anche quello che poi è in una, in un consumo e a sua volta in un pagamento che sia adeguato, perché molte volte adesso sapete bene che non è, puoi trovare anche a buon mercato, ma nello stesso tempo non sempre così a buon mercato. Globalizzazione e commercializzazione di quello che è il percorso di tradizione e tradizionale è stato insomma anche un altro elemento limitante per quello che è un buon gusto. È difficile mangiare bene nel centro delle città, anche quelle di grandissima tradizione enogastronomica, è più facile trovarsi uscendo un attimo. Purtroppo quello che vediamo, almeno nei posti da me frequentati, ne approfitto per salutare quella che è stata la trattoria da Sar e Massimo a Panarella, frazione di Papozze, nel Delta Veneto del Po, ha chiuso ed è stato per me una grande perdita. E vedere chiudere quei posti e invece in maniera prolifica ampliare quelli, come si chiamano, woke poke, queste, oppure il wasabi, sushi, Mitsubishi, adesso tutti questi, no, mi mette un po' di, oltre che di tristezza, anche di timore. Un argomento che porta a un'estensione, porta a motivo di dibattito che poi tra l'altro anche in dialogo con le giovani generazioni, che a quanto pare sono più curiose per gli aspetti alimentari, nel bene e nel male. Anche il capitolo magari in un'altra puntata sull'aspetto dell'enologia. Per adesso restiamo invece con la playlist e la colonna sonora dei magazine di oggi, lunedì 29 aprile. Ci spostiamo e bisognerebbe prima fare sport con un caloroso abbraccio, poi andare a tavola. Qua stiamo facendo un po' alla rovescia, ma ciò non toglie che anche in questo caso l'argomento è di centrale importanza. Sì, in un momento come questo, poi un gesto di fratellanza, pagina 10, l'abbraccio nel linguaggio sportivo. L'abbraccio comunica significati diversi e sottintesi, gesti di euforia collettiva, abbracci sconosciuti, ad esempio per chi frequentava o frequenta Palasport o stadio. Mi ricordo al Palasport, certo che io andavo al Palasport come si va a teatro, per dire, però Ciò non toglie che mi è capitato qualche volta di abbracciare uno sconosciuto pur appartenente alla stessa squadra in un momento di, ecco, euforia collettiva. Una bella euforia questo, un abbraccio è sempre qualcosa di bello, no? Viene definito abbraccio al terzino. Nell'abbraccio i corpi si aprono per includersi in un dinamismo fisico ed emotivo seguito da espressioni sonore. E quanto avviene in maniera sempre più plateale nello sport, l'abbraccio è seguito o preceduto da urla di gioia per la vittoria. In quest'ambito la dinamica corporea esagerata, il significato simbolico vanno di pari passo. E invece tiepido l'abbraccio tra il tennista vincitore di Wimbledon e lo sconfitto. Sul ring, è vero, il tentativo di abbracciare il pugile avversario ha il significato di impedire all'altro di sferrare colpi decisivi, la presa dell'altro per qualche secondo, anche se sotto lo sguardo vigile di un arbitro, riduce il movimento per colpa dei guantoni. Nel ciclismo, come negli altri sport individuali, è solo dopo il traguardo che è concesso. L'abbraccio al terzino, perché ha portato questo esempio, perché è un difensore e quindi è difficile che porti a meta, a gol, l'azione vincente per una squadra. Quindi, come dice qua l'articolo, con momenti e gesti di euforia collettiva, è chiaro che quando invece avviene, l'abbraccio è molto più intenso, anche perché non te l'aspetti dal difensore un gesto, ma è un esempio. Oramai anche i ruoli sono completamente, penso, anche nel calcio, confusi. Festeggiare in ambito cestistico nel percorso di una competizione, mi raccomando, non perdete la concentrazione, soprattutto al playground, in una competizione dove, e può capitare, le squadre sono miste. Mi raccomando, mantenete la concentrazione perché è un attimo, Infatti, perché nella pallacanestro si dà approvazione, si incita, è il gesto più continuo nel, anche oltre l'abbraccio è toccarsi il sedere. Quindi attenzione, perché con sculacciate, con insomma, quindi con attenzione. Grazie. Grazie Sergio, grazie Andrea intanto per questa co-conduzione. Allora, ho dedicato a Poldo, che tu mi stai ricordando, il festival In mezzo scorre il fiume. Sappiamo bene che Poldo e il suo amico che frequentano spesso questo luogo quanto mai suggestivo, ogni tanto ne confondono anche l'utilizzo, ma per quanto riguarda, come ci suggerisce Sergio, un'ottima e un ottimo motivo per ribadire per il 1° maggio 2024 il Cantamaggio di Val Santerno, poi dopo dal 29 giugno al 25 agosto in mezzo scorre il fiume e Poldo lo sa bene. Invece Andrea, buongiorno Andrea, ci siamo incrociati al Pratello e si aggiunge proprio qualche difficoltà nell'elencare queste nuove possibilità per quanto riguarda il convivio. È l'all you can eat, ha portato la faccina nel senso di nausea, di rigetto, ecco. Condivido Andrea. Passa dalle fiorentine immerse in tinte nell'oro al famoso pata negra. Ma cos'è la pata negra? Cioè, ma avete mai mangiato, a proposito di approvazione nel basket, ma ok, ma avete, cioè, il culatello di zibello, avete mai, il pata negra scompare vicino a un culatello di zibello. Adesso diamo sempre la definizione di provenienza, perché abbiamo questi estremi, dall'all you can eat alle cotolette fritte nella colatura d'orzecchino, no? Intanto stiamo ascoltando i Groove Armada, così tanto per ricordare anche la nostra playlist. A breve andiamo in pubblicità, poi rientriamo e riprendiamo la nostra rassegna stampa, questa volta parlando di letteratura. Già ci siamo distratti tra cibo e abbracci nel mondo dello sport. Quindi procediamo, come vi ho detto. Il pistacchio di Bronte. No, il pistacchio lo prendiamo solo se è di Bronte. Beh, boh. Le acciughe del Cantabrico. Sì, sono tutti quegli aspetti ampiamente criticabili, secondo me. Comunque, sono le 8:28 minuti di questo 29 aprile, inizio di questa manciata, un paio di giorni per terminare il mese, quarto mese del 2024. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, parliamo di letteratura con un articolo dall'edizione domenicale di Alias del Manifesto che ha portato la nostra Silvia Albertazzi. A tra poco! Say, my dear, baby, yeah. So glad you're mine. Oh, oh, oh, baby, why did it take so long? Oh, baby, oh, only made my love grow strong. E di nuovo in diretta, 8 e 32 minuti Magazine. Ho capito quando Silvia immaginavo e poi ha aperto l'ultimo voltiamo pagina dicendo questa volta anticiperemo noi Magazine. Infatti è uscito dopo la sua presentazione di Knife, coltello edito da Mondadori, per il lavoro di Salman Rushdie, in una lingua sommessa alla ricerca di empatia e il memoir sulle conseguenze dell'aggressione. Knife, coltello da Mondadori, tra dolore e ironia, note da un incubo sul finire dell'estate. Lo scrittore ferito che chiama il suo tentatore solo A sarà al Salone del Libro di Torino. È il 12 agosto 2022 a Charutauqua, ridente località lacustre nello stato di New York. Ho pronunciato malissimo questo nome. Salman Rushdie stava per prendere la parola a un incontro sulla fondazione di spazi sicuri in America per scrittori stranieri, quando un individuo mascherato gli si avventò contro armato di coltello. Tra il pubblico non pochi pensarono a una performance, ma presto si dovettero ricredere. E da qui parte l'articolo e non solo, anche il lavoro di Silvia, che come avrete ascoltato nel mercoledì del Voltiamo Pagina, una modalità di narrazione particolare da un grandissimo talento, con il paragrafo di Appunti di vita a pagina 4 di Alias edizione domenicale del Manifesto, riporta quel momento assolutamente tragico e di grande dolore per Salman Rushdie, che si trova ferito gravemente, si riprende, ne porta una narrazione postuma all'episodio gravissimo tra l'altro, ma non lo fa con tragedia e con tutto quello che ho elencato nelle difficoltà, anzi lo fa anche con una nota di quotidiana ironia che appartiene allo stesso autore. Knife, edizione Mondadori, l'articolo di presentazione di Silvia Albertazzi su Alias del Manifesto, oltre che al Voltiamo Pagina di Salman Rushdie. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. My life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Sia un invito magari anche al sole, sai mai. Tutti quanti amiamo il sole, quindi. Oh, dicevo di letteratura, bellissimo questo articolo, seppur strutturato anche non immediato. A pagina 8 cambiamo magazine, siamo sulla Domenica del Sole 24 Ore. L'esegesi di Dante inizia dall'epistola. Per Luca Zetta la famosa lettera invita a leggere il paradiso non come una finzione, ma come un contatto con la realtà celeste, e ne parleremo a breve. Lettera Cangrande. Tra i primati di Dante c'è anche quello di essere stato il primo dei nostri grandi autori ad aver accompagnato la propria opera con una costante riflessione teorica sulle ragioni della propria scrittura. Cioè lui ha anticipato i tempi di come si sta scrivendo in questo momento. Intanto una tradizione che arriva passando per Leopardi sino a Calvino, come vi ho detto, con secoli di anticipo. Come sanno gli specialisti, possono infatti essere letti anche come commento ai propri versi stessi. Nella narrazione stessa un motivo che porta l'aiuto dell'autore alla comprensione. Quindi il commento critico che viene, e autocritico per meglio dire, nella stessa stesura del racconto, e se fatto in maniera impercettibile oppure che dia motivo di interesse particolare per leggere una volta in più questo contenuto, è veramente fenomenale. Già scrivere di per sé un romanzo, narrazione, figuriamo ci poi questa entità, e allo stesso modo avere in maniera tra le righe la capacità di portare commento sintetico di autocritica è... Like other girls, or is it my imagination? It's pounding in my heart, girl, it's all because of you. Si mangia bene dove c'è la macchina di Willy parcheggiata fuori. Sì, a meno che non l'abbia prestato a qualcuno, ma tendenzialmente, modestia a parte, grazie Sergio, tendenzialmente sì. Little mama, I'm trippin' out over you, baby. Ieri, visto anche le temperature, io mi concedo nel weekend, come ben sapete. Allora, voglia di risotti. Dove si va a mangiare il risotto? A Isola della Scala, a Verona, patria del vialone nano. È una... Beh, risotto all'isolana, il risotto ai funghi, il risotto agli asparagi, il risotto allo speck e gorgonzola, insomma, tanti assaggi che poi diventano invece portate vere e proprie. Ecco, non si può fare una pubblicità così esplicita, però dai, risotteria Melotti a Isola della Scala. The love you give me, you got me. No, aspetta, non, cioè anche perché ho praticamente detto un gigante, numero uno, tutti i tempi, cioè c'è quella, Riso Melotti, c'è quella. I'm tripping out, tripping out. Però l'analisi del All You Can Eat fino ad arrivare al Patanegra immerso nella filigrana d'oro, non so, dovrebbe dare motivo di... All over you. All over you. Come on. Ooh. Ooh. Ah, mi hanno detto che devo mettere questo brano a commento dell'articolo che presenterò a breve. E io eseguo. Beh, loro sono i Primal Scream, intanto. Poc'anzi abbiamo ascoltato invece un Curtis Mayfield con Trippin' Out a proposito di viaggio. Vi ho parlato di Dante in una lettera di esegesi critica per quanto riguarda la stessa narrazione, di autocritica, ecco, di una parte del paradiso, di uno sguardo concreto nel celeste. Ecco, a pagina 7, sempre della Domenica del Sole 24 ore, a proposito di uno sguardo concreto nel celeste, in cerca degli alieni già dal 17 secolo, vite extraterrestri, ed è sulla base della concezione copernicana che il filosofo e astronomo olandese Christian Huygens sostenne che i pianeti del sistema solare fossero abitati. Il testo è stato riedito. Difficile da pronunciare, il Cosmo Theraeus. Congetture sulle terre celesti e sui loro ornamenti. Viene ripreso per mimesis da Lorenzo De Piccoli. In effetti la concezione copernicana, quindi la Terra non è più al centro, la Terra è un contorno insieme a tanti altri. Per cui, insomma, questo ha dato motivo di non essere poi più così protagonisti. E se come noi altri... È un'opera di cosmologia dove si difende il sistema copernicano, da quanti ancora alla fine del XVII secolo lo osteggiavano e sulla cui base l'ex astronomo del re di Francia cerca di fornire una dimostrazione filosofica dell'esistenza di forme di vita in tutto l'universo, ma è anche qualcosa di più, una sorta di testamento intellettuale e una meditazione sull'uomo, con un invito a porsi da una prospettiva diversa da quella terrestre ed eliocentrica, a adottare cioè un relativismo cosmologico, analogo a quello culturale che la scoperta dei popoli americani aveva già da tempo messo in evidenza. Ho ordinato diversi libri da Ubik, quindi ad esempio uno che deve uscire il 30 aprile, cioè domani, è Il Custode di Ron Rush. Nel romanzo di Ron Rush, Jacob è un guardiano di tombe nel North Carolina degli anni 50. Figuriamoci già se questa presentazione non coglieva totalmente il mio interesse. Il destino gli affida la moglie del suo migliore amico e un segreto. Questa anticipazione ribadisce intanto anche le edizioni di una casa editrice che sto seguendo, è La Nuova Frontiera. Potrebbe essere il nuovo lavoro presentato non per questo mercoledì che è primo maggio, ma per il prossimo al Voltiamo Pagina. C'è questo, come vi ho detto, e poi in prima pagina su Alias edizione domenicale Clarice Lispector, di cui abbiamo già presentato il lampadario, è bravissima. Il fascino futile della materialità è tradotto per la prima volta. La città assediata vede in scena una donna che, dietro la sua incapacità di affrancarsi dalle cose più irrilevanti, nasconde una mistica malinconia. Delle attinenze col lampadario ci sono, l'abbiamo presentato, è stato uno dei libri più belli che ho letto 2 anni fa. Con questo oggetto che perdeva le gocce di cristallo, ma che rimaneva sempre al suo posto nel decadere di questa abitazione che faceva da contorno a questo centro di luce, ha avuto un'iconografia molto immaginaria, ma nello stesso tempo abbinato a quelli che erano i percorsi di quella famiglia. Lo consiglio, Il Lampadario, edizione Adelphi di Clarice Lispector. All right, come on, get ready to go. You say you wanna leave, but I want you to stay. We're like a chameleon, we're changing every day. I know I said I'd go, I said I'd go away. But with my love like the river, I'd come on home someday. We keep changing, changing, changing, changing. We're changing, changing, changing. E io concludo con questi disegni. Lui è Per Toons, intervista all'autore di bestseller Per Caso. È adorato dai bambini, adorato anche dai grandi. Sì, sono freddure molto immediate, però trova un pubblico quanto mai esteso. Alessandro Perugini, detto Per Toons, nel 2023, pensate, ha battuto tutti i record di vendita. Nel 2024 probabilmente farà anche meglio. Qual è il segreto del suo successo, soprattutto tra i bambini? Qui racconta il lavoro che c'è dietro e la paura della responsabilità. Sì, per me lo conoscete, quindi insomma indubbiamente un talento, una fantasia, una capacità e un umorismo molto immediato, ma nello stesso tempo basato sul gioco di parole, il calembour, ma non solo, anche sull'equivoco, sullo scambio di quella che può essere la situazione. Beh, è anche in una grafica molto elementare, ma allo stesso tempo particolare e chiara, con dei colori, sì, accattivanti. Bravo Per Toons. Alle 8:50 minuti abbiamo terminato i magazine. Domani avremo il Move to Groove, tra pochissimo il Dipeo enciclopedico, dopodiché Liberi Dentro e rassegna stampa di Radio Città Fusico. Poi il grande, no, lo sport. Oggi è lunedì, abbiamo lo sport sui 103.1 con Caffè e Paglia, Mingo & Company, per i commenti sul weekend appena trascorso. Caffè e Paglia fino alle 12:30. Domani alle ore 7 vi aspetto a colazione. Avremo lo speciale Angelica per altri suoni, di cui oggi c'è a breve la conferenza stampa ufficiale. Già qualche anticipazione l'abbiamo data con Jazz Live. Domani ci sarà la presentazione più estesa e poi il Move to Groove del martedì. Questo è il menù di colazione per domani. Grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Alle ore 7 vi aspetto domattina. Ciao a tutte, ciao a tutti.